24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, una nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura, la minaccia dell'agenzia Standard & Poor's ai rating di 15 paesi dell'Eurozona. In una giornata di rialzi per le borse occidentali, con il record di Milano che ha segnato più 2,9%, è di nuovo Standard & Poor's a spegnere i sorrisi. L'agenzia americana ha messo sotto osservazione il rating di 15 paesi dell'Eurozona, tra cui l'Italia, ma soprattutto ha puntato il dito verso Germania e Francia, che rischiano di perdere il giudizio a AAA sul debito, il massimo grado di affidabilità che condividono con Olanda, Austria, Finlandia e Lussemburgo. Entro 90 giorni il giudizio di questi paesi potrebbe essere rivisto al ribasso come conseguenza della profonda crisi economica, finanziaria e politica che sta attraversando la zona euro. Gli analisti di Standard & Poor's stigmatizzano poi la mancanza di progressi da parte dei politici europei, che non ha permesso di mettere sotto controllo gli spread e la loro volatilità. L'occasione per cambiare direzione, per alcuni l'ultima possibilità per l'eurozona, è venerdì 9 dicembre a Bruxelles. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un tempismo, quello di Standard & Poor's, che desta qualche sospetto. Simone Spezia ha intervistato a riguardo Donato Masciandaro, professore di economia politica all'Università Bocconi di Milano ed editorialista del Sole 24 Ore. Le agenzie di rating sono aziende private orientate al profitto che emettono giudizi. Su alcuni titoli, che sono i titoli sovrani, non hanno informazioni diverse dagli altri, lavorano su titoli pubblici. Allora, perché il sistema continua a dare tanto peso a giudizi, opinioni? Ma la risposta è una sola: perché sono 20 anni che queste opinioni sono diventate parte integrante della regolamentazione. Quindi la colpa non è di Standard & Poor's, la colpa è dei regolatori che si lamentano ma continuano a mantenere questa assurda situazione. C'era su questo tema un bel commento proprio sul Sole 24 Ore, lei aveva scritto qualche mese fa, in agosto, che analizzava, professore, proprio quali sono le caratteristiche che ci si aspetta dalle agenzie di rating e quali e perché invece in realtà queste caratteristiche non sono rispettate. Le agenzie di rating nascono e trovano il loro successo perché offrivano al mercato qualcosa di diverso. Essenzialmente per tre ragioni: avevano informazioni migliori perché entravano nelle aziende, avevano metodi di analisi migliori perché li avevano solo loro, e in terzo luogo perché erano indipendenti. Allora, chiediamoci oggi quali di queste caratteristiche reggono ancora. Se lavorano su dati pubblici, non hanno informazioni riservate. I metodi di analisi e di valutazione sono diffusi in tutto il mondo, anche in aziende diverse da quelle del rating, e non credo che abbiano personale migliore, perché i loro stipendi non sono i migliori. Infine l'indipendenza: ma come si fa a dichiararsi indipendenti se si vive sulle fee di chi i giudizi subisce? Una volta non era così, quindi oggi non c'è alcuna ragione solida per dire che questi giudizi danno un valore in più al mercato. Sono valutazioni come possono essere espresse da chiunque altro. Però come mai normalmente il mercato continua a dare tanto peso alle agenzie di rating? Ciascun operatore vede un'opinione che conosce benissimo, che non lo sorprende, però sa che tutti gli altri reagiranno a quella opinione. Allora a lui non interessa che l'opinione sia fondata o meno su nuove informazioni, deve solo reagire un secondo prima degli altri. Ma siccome sono tutti intelligenti e tutti razionali, ecco che nel mercato si crea l'effetto gregge. E la minaccia dell'agenzia di rating Standard & Poor's ieri ha frenato l'euforia rialzista sui mercati europei, anche se i listini hanno limitato i danni registrando solo lievi flessioni. Londra ha chiuso in parità, Parigi ha perso lo 0,68%, Francoforte ha registrato un ribasso dell'1,27%. Lievemente negativa la piazza di Milano. Il FTSE Share ha contenuto le perdite allo 0,46% e il FTSE MIB allo 0,49%. Gli investitori continuano ad attendere da una parte le decisioni della BCE sulla politica monetaria in calendario giovedì e dall'altra l'esito del vertice europeo di venerdì per capire quali saranno gli interventi per far fronte alla crisi del debito. In questo scenario le banche si sono mosse in ordine sparso, alcune colpite dai realizzi dopo i rialzi di lunedì, altre confortate dalla tenuta dello spread tra BTP e Bund. MPS è salita dell'1,44% e UBI Banca dell'1,06%, mentre hanno perso terreno tra le altre mentre Intesa San Paolo meno 0,8% e Unicredit meno 1,3%. Debole infine Fondiaria Sai meno 4,3% in attesa di sviluppi sull'ipotesi di cessione delle partecipazioni strategiche. Paolo Paronetto da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Belgio. Ieri il giuramento del governo di Rupo. Alberto II, re del Belgio, ha nominato ufficialmente ieri il socialista francofono Elio Di Rupo come primo ministro insieme a 12 ministri e 6 segretari di Stato del nuovo esecutivo. Alberto II ha messo così fine alla crisi politica più lunga della storia del regno, durata ben 540 giorni. 18 mesi dopo la caduta del governo, diretto dal democratico cristiano fiammingo Yves Leterme, e 540 giorni dopo le elezioni legislative del 13 giugno 2010, c'è dunque voluto un negoziato maratona di 20 ore tra i 6 partiti della coalizione per definire la ripartizione dei dicasteri. Alla fine non ci sono cambiamenti rilevanti rispetto all'esecutivo uscente. La sola importante differenza è l'ingresso dei socialisti fiamminghi nella coalizione governativa, di cui fanno parte anche i socialisti francofoni, i liberali e i democratico cristiani. Restano invece all'opposizione i verdi e gli indipendentisti fiamminghi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche l'Irlanda ha le prese con le misure di austerità. Il ministro delle Finanze ha annunciato l'incremento delle tasse, tra cui quella sui redditi da capitale, per 1,6 miliardi di euro, aumentata di 2 punti l'IVA. In totale la manovra dovrebbe consentire il recupero di 3,8 miliardi di euro per ridurre il deficit pubblico pari al 32% del PIL. Primo paese del vecchio continente a essere salvato dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, l'Irlanda è entrata in seria difficoltà con lo scoppio della bolla immobiliare. Andiamo in Francia adesso. È evidente che il nostro dispositivo di sicurezza presenta dei punti deboli, ha dichiarato il ministro dell'interno francese Claude Guéant, dopo che 7 militanti di Greenpeace non solo sono riusciti a penetrare in 2 centrali nucleari, ma anche a restarvi per 14 ore prima di essere arrestati. Greenpeace ha centrato il suo obiettivo, rimettere in discussione la validità degli stress test effettuati nelle centrali nucleari europee dopo la catastrofe di Fukushima. Ora Londra per una notizia che riguarda le Olimpiadi 2012. Garantire la sicurezza durante i Giochi Olimpici di Londra 2012 costerà al governo britannico quasi 650 milioni di euro, cioè quasi il doppio rispetto a quanto preventivato l'anno scorso. Lo indica un rapporto ufficiale in cui si evidenzia che il nuovo stanziamento servirà a pagare le 23.600 persone che si occuperanno dei controlli e della sicurezza negli oltre 100 siti olimpici durante i giochi che scatteranno il 27 luglio e si concluderanno il 12 agosto 2012. Il governo inglese ha così deciso di rafforzare di 14.000 unità, praticamente triplicandolo rispetto alle previsioni, il personale addetto e di raddoppiare quindi il budget previsto, che comprende equipaggiamenti e attrezzature speciali. Il ministro che si occupa del dossier Olimpiadi, Hugh Robertson, ha spiegato che il governo ha voluto esaminare attentamente ogni aspetto della questione prima di determinare l'impegno economico e organizzativo. Alla sicurezza dei giochi contribuiranno comunque diversi paesi, tra i quali l'Italia. Nei giorni scorsi a Parigi il ministro dell'interno, Anna Maria Cancellieri, ha incontrato la collega britannica Theresa May, discutendo tra l'altro del contributo che Roma fornirà alle autorità britanniche in termini di intelligence e sicurezza. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura a Roma, dove un monumento simbolo, patrimonio dell'umanità, il Colosseo, è a rischio secondo l'Associazione Restauratori d'Italia. I nuovi lavori, che dovrebbero partire a giorni con il finanziamento da 25 milioni di euro di Diego Della Valle, potrebbero infatti essere affidati a personale non specializzato, trasformando un restauro in un'opera di normale edilizia. La presidente dell'Associazione Restauratori d'Italia, Carla Tomasi, chiede di bloccare la gara d'appalto. La sentiamo al microfono di Adriana Fracchia. I restauratori fanno appello al ministro e alle istituzioni di riaprire i termini del bando di gara di selezione utilizzando un concetto di ragionevolezza, perché con questa operazione non si riesce a tutelare correttamente il bene a fronte di un impegno economico che non vede margini di risparmio e che inoltre porta un'immagine distorta della nostra nazione, che ha delle eccellenze proprio nel campo del restauro, creando invece una confusione e presentando un'operazione che ha sicuramente dei margini di inquietudine. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.